una devozione, questa, cari amici, così intensa e anche continua, possiamo dire, che spinse Don Guanella a scrivere alcuni testi che, se non possono essere considerati dottrinali, sono però intensi e ricchi di ispirazione. Sappiamo che Don Guanella dava enorme importanza alla famiglia, al clima familiare, e ci è anche noto come egli considerasse fondamentale, determinante nella sua vita, il ruolo del Padre Celeste, cioè di Dio Padre, visto come Padre tenero, generoso, previdente. E alla formazione di questa sua disposizione d'animo ha contribuito in modo notevole anche il ruolo del suo papà terreno, che si chiamava Lorenzo, un sant'uomo talmente presente nella vita di San Luigi Guanella da influire non solo sulla sua vita, ma addirittura sulla sua opera. E Don Guanella considera San Giuseppe proprio maestro di vita spirituale e modello di vita pratica, insostituibile nella Sacra Famiglia. Quindi accomunava un po' il suo papà a quello che era, diciamo, il riflesso di San Giuseppe. Sa, e riguardo a San Giuseppe, scrive: sa tenere il suo posto in ogni occasione, e Maria e Gesù hanno per lui un affetto rispettoso, gli obbediscono in tutto ciò che riguarda il bene e la sicurezza della famiglia. San Giuseppe è modello di pietà, di laboriosità, di dignitosa povertà, e così ne parlava ai suoi figli spirituali, diceva, ma questo riguarda anche noi, cari amici, quando sopraffatti dalla necessità o dalla stanchezza o dalla tristezza, sentiamo il bisogno che una voce potente interceda per noi presso i cuori immacolati di Gesù e di Maria, ricorriamo fidenti a San Giuseppe, ed egli, che tante volte riprovò le strette delle umiliazioni inerenti alla povertà, si farà sentire come nostro potente avvocato e padre. E Don Guanella aveva anche da tempo nel cuore il desiderio di affidare e di mettere tutti i suoi figli sotto la protezione di San Giuseppe, cioè le sue congregazioni. Ed è facile intuire, cari amici, la sua gioia quando il Santo Padre Leone XIII proclamava il nostro santo patrono, proprio patrono degli istituti pii. E Don Guanella Felice scriveva così nel marzo del 1900: «In ognuna delle chiese dipendenti dell'opera della Divina Provvidenza troneggerà il culto di San Giuseppe, al quale dedichiamo un giorno ogni settimana, cioè il mercoledì, un giorno ogni mese, il 19, un mese ogni anno, e cioè marzo». E qui mi rifaccio alla lettera apostolica di Papa Francesco, che ha dato la possibilità dall'8 di dicembre del 2020 all'8 di dicembre di quest'anno di lucrare proprio, al di là di marzo già passato, ma ogni mercoledì e ogni 19 del mese di lucrare proprio per questa cosa l'indulgenza plenaria. Quindi è una cosa stupenda, un grande tesoro che la Chiesa mette a nostra disposizione proprio grazie all'anno dedicato a San Giuseppe. E scrivo anche, nel regolamento poi dell'altro ordine da lui fondato, cioè i Servi della Carità fondato da Don Guanella, si legge: «L'istituto, scrive Don Guanella, prega Dio e i santi del Signore, e fra i santi in particolare San Giuseppe, perché moltiplichi le famiglie religiose, le quali sono destinate a crescere in conformità della stessa Sacra Famiglia». E ricordava come il 10 dicembre di molti anni prima, del 1847, Pio IX avesse esteso la festa del patrocinio di San Giuseppe a tutta la Chiesa, e poi, come sappiamo, l'8 dicembre del 1870, con il famoso decreto Quem ad modum Deus, abbia proclamato lo sposo di Maria patrono della Chiesa universale. E proprio rifacendosi a questo decreto di Papa Pio IX, Don Guanella, che così vivamente partecipava alla vita della Chiesa, aderì con tutta l'anima e con tutto il cuore al nuovo modo di intendere la figura di San Giuseppe, chiamato da Dio a continuare nella Chiesa la stessa missione grande e unica di cui era stato investito nella piccola famiglia di Nazareth e di cui la Chiesa stessa è un'estensione. Più tardi questo santo riuscì ad edificare la sua grande chiesa nel popoloso quartiere romano del Trionfale. e anche questa vuole dedicarla al suo santo, a San Giuseppe. E non a caso, negli ultimi anni della sua vita diceva: «L'opera nostra è giunta a Roma, vi si è consolidata e di là si propagherà nel mondo. Ma ho nel cuore un altro pensiero e desiderio, c'è bisogno più ancora di ben morire. Una buona morte è tutto. Che cosa conta tutto il lavoro consacrato alla salvezza delle anime se poi si muore male?» E proprio qui, come abbiamo detto prima, dal suo cuore di padre e di sacerdote scaturisce l'ultima iniziativa, cioè la crociata di preghiera per i morenti, inserita nella consolante realtà della comunione dei santi, per cui tutta la Chiesa, sia quella trionfante in cielo, sia quella purgante, sia quella meditante sulla terra, è unita nel vincolo della carità. E questo è un bellissimo spaccato della figura di San Luigi Guanella. E da San Luigi Guanella passiamo a un altro santo giuseppino, possiamo dire così, che è San Leonardo Murialdo. San Leonardo Murialdo muore nel 1900, quindi in tutto il XIX secolo, è attivissimo. In quel momento lui occupa il rettore del collegio Artigianelli di Torino, luogo di aperta devozione al Santo Patriarca, e lui stesso, nutrendo una grande devozione verso San Giuseppe, questa devozione dobbiamo dire che ebbe i primi germi proprio in famiglia, quindi i familiari erano devotissimi già di San Giuseppe, e ancor più si accese ancora di più nel collegio degli Scolopi di Savona, dove San Leonardo studiò, e fondò appunto la congregazione di San Giuseppe nel 1873. E in San Leonardo la devozione al Santo Patriarca si rivela con caratteristiche originali. Egli infatti associa San Giuseppe al Sacro Cuore di Gesù secondo l'antica giaculatoria: era San Giuseppe amico del Sacro Cuore. Ma riportiamo ora anche i principali concetti che San Leonardo esprime negli scritti a sostegno della sua personale devozione a San Giuseppe. Il primo fra i testi che egli ci lascia in eredità è un'omelia del santo per la sua festa, probabilmente il 1857, che pronunciò nell'istituto chiamato Le Orfanelle, diretto dalle suore di San Giuseppe. Nel discorso San Leonardo accenna al fatto che Giuseppe, pur essendo della famiglia reale di Davide, volle vivere in povertà, perché lo stesso uomo Dio voleva condurre una vita povera, cioè Gesù stesso. Un altro concetto espresso in questa omelia è che Giuseppe, come sposo di Maria, possiede la parte migliore degli affetti del cuore di Maria, il più puro, il più santo. Come potrebbe essere diversamente? Ma solo se immaginiamo una vita vissuta con la Madonna, con Gesù, nella grazia, nella purezza, nella santità più grande, possiamo immaginare, al di là delle preoccupazioni che questo grandissimo santo ha ovviamente patito nella vita, ma anche la gioia profonda di essere insieme, di essere padre putativo del Figlio di Dio e sposo di Maria Santissima. Voi provate a immaginare in quella casa, in quella santa casa, cosa non si viveva. E Giuseppe, io scrivo, fu lo sposo che condivise le gioie e i dolori, le speranze e i timori con Maria sua sposa. E non esiste dignità più alta, eccettuata la maternità di Maria, di quella di essere il suo sposo e di essere chiamato padre da Gesù. E la casa di Giuseppe diventò il tempio di Dio, giacché Dio stesso vi abitava sotto spoglie mortali, e Giuseppe viveva per Gesù, assumendo per lui cuore e viscere di padre e divenendo per affezione ciò che non era per natura. Padre pienamente, possiamo dire. Il 7 maggio 1875 San Leonardo, parlando ai confratelli del perché l'umiltà fosse il primo carattere distintivo della congregazione da lui fondata, spiegò proprio che l'umiltà era caratteristica propria di San Giuseppe e quindi la congregazione doveva viverla per esprimerla in modo pieno. E sempre in San Leonardo si industriò pregando nel proporre delle meditazioni proprio su San Giuseppe, in modo particolare nel suo distintivo patrono della buona morte, quindi San Giuseppe patrono della buona morte, come lo preghiamo moltissimo anche noi, ma anche liberatore da una morte improvvisa, nonché di San Leonardo, patrono della vita interiore. E il 10 gennaio del 1877 tenne una conferenza sulle ragioni della devozione e la scelta di San Giuseppe come protettore anche della sua congregazione, affermando: «Quanto più vicino a Dio è il santo, tanto più è valido come protettore. Perciò mi sono scelto San Giuseppe, che indubbiamente è uno dei santi più vicini a Nostro Signore». E San Giuseppe rappresentò per lui, come egli stesso scrive, il maestro e il protettore delle vocazioni, perché, dice San Leonardo, anche egli ebbe la missione di dirigere i primi passi di Gesù e fu la provvidenza per Maria e Gesù, come le ho tuttora di tutti i poveri. Egli aveva provato le angustie e le umiliazioni della povertà. E in una novena scritta nel 1877 da lui composta, affermava che la devozione consisteva proprio nella stima, nella confidenza per questo santo, e da qui nascono amore nel cuore e volontà di imitazione. E sappiamo bene che proprio, come ci dicono anche gli stessi santi, la vera devozione a un santo è quella di cercare di imitarlo, pur nella nostra piccolezza, il più da vicino possibile. E ancor qui nelle predicazioni affermava soprattutto e sottolineava le virtù di San Giuseppe. E scrive così San Leonardo: «San Giuseppe, nell'essere padre di Gesù, esercitò amore di padre, cura di padre, ufficio di padre, autorità di padre. Il santo patriarca lavorava con Gesù alla presenza di Dio, lavorava per Gesù, lavorava come Gesù, sia esternamente che internamente, senza ozio e facendo la volontà del Padre. Noi, dice San Leonardo, siamo fratelli di Gesù, in quanto con Natale Giuseppe divenne padre adottivo di Gesù. Gesù lo chiamava padre e Giuseppe guardava Gesù come figlio. Anche noi dalla consacrazione lo chiamiamo padre ed egli ci guarda come figli. Così, dice San Leonardo, abbiamo nuova fratellanza con Gesù in San Giuseppe». E possiamo proprio dire che San Giuseppe è il padre putativo di Gesù, ma anche il nostro padre putativo. Noi come fratelli di Gesù, dello Spirito, abbiamo come padre anche San Giuseppe, in questo caso. E ce lo dicono molti santi, e anche dei papi, come vedremo in questo senso. E che siamo figli di San Giuseppe prediletti, lo ricordava di nuovo ancora nell'ottobre del 1892, sottolineando un'altra virtù di questo grande santo, quello della castità. Castità che oggi purtroppo, devo dire con rammarico, con dispiacere, è una virtù che viene presa in giro, no? Si ironizza sulla castità, invece è una virtù preziosissima agli occhi del Signore che ci porta tante tantissime grazie. E voi pensate, San Leonardo faceva conoscere San Giuseppe soprattutto ai ragazzi, proprio presentandolo come modello e protettore della castità. E agli stessi ragazzi che erano sotto la sua direzione anche negli anni successivi, ripeteva come San Giuseppe fosse il protettore, oltre a quello della castità, ma anche della vocazione, della direzione spirituale, della vita interiore e della buona morte, arrivando poi ad affermare: «Ragazzi miei, San Giuseppe è il direttore spirituale di coloro che non l'hanno». Quindi la devozione a San Giuseppe ci dà le buone luci, anche perché lui, San Giuseppe stesso, ci possa guidare nella nostra vita spirituale. E infine ricordava come sempre San Giuseppe in cielo fosse accanto a Gesù, come lo era in terra, e affermava: «Gli altri santi sono servi di Gesù e Maria. San Giuseppe è il padre del re e lo sposo della regina del cielo, quindi i santi lo onorano e lo rivoriscono come i covoni che veneravano l'antico Giuseppe d'Egitto». Ecco, quando San Leonardo si riferisce a, fa questa similitudine tra San Giuseppe e anche i covoni d'Egitto, i covoni che riveriscono Giuseppe d'Egitto, sappiamo che Giuseppe d'Egitto non è ovviamente San Giuseppe, ma è il figlio di Giacobbe, che fu poi venduto dai suoi fratelli ai mercanti e poi andò in Egitto, e da qui salvò poi l'Egitto dalle famose piaghe, eccetera. Lui fece questo sogno quando era ancora con il padre, con Giacobbe e i fratelli erano molto gelosi di lui, fece questo sogno nella quale vedeva che tanti covoni che rappresentavano i fratelli che aveva si inchinavano davanti a lui. Da qui i fratelli decisero poi di ucciderlo, ma il Signore non lo permise e quindi fu poi venduto. Ma andiamo oltre. Volevo presentarvi adesso un altro santo, molto più vicino a noi, e stiamo parlando di San José María Escrivá de Balaguer. San José María muore nel 1975 ed è stato, come sappiamo, il fondatore dell'Opus Dei, e lui fu proprio un grande devoto di San Giuseppe, a tal punto, pensate, che mise la sua stessa opera sotto il suo patrocinio. San José María era particolarmente devoto alla Madonna e, come diceva lui, anche alla Madre Chiesa, amava la Chiesa in modo unico. E vedeva però in Giuseppe, lui dice, il maestro di vita interiore. Mettiti sotto il suo patrocinio, dice, e sentirai l'efficacia del suo potere. E di seguito desidero condividere con voi una parte, naturalmente, di una sua celebre omelia, che si intitola Nella bottega di Giuseppe, che è tratta dal libro È Gesù che passa. E dice così San José María: la Chiesa intera riconosce in San Giuseppe il suo protettore o patrono. Nel corso dei secoli si è parlato di lui, sottolineando i vari aspetti della sua vita che lo mostrano costantemente fedele alla missione ricevuta da Dio. È per questo che da molti anni mi piace invocarlo con un titolo che mi sta a cuore: Padre e Signore nostro. San Giuseppe è realmente un padre e signore che protegge e accompagna nel cammino terreno coloro che lo venerano, come protesse e accompagnò Gesù che cresceva e diveniva adulto. Dall'intimità con lui si scopre inoltre che il santo patriarca è maestro di vita interiore. Vedete come battono spesso su questo tasto tantissimi santi, come maestro di vita interiore. E continua San José María: ci insegna infatti a conoscere Gesù, a convivere con Lui, a sentirci parte della famiglia di Dio. San Giuseppe ci insegna tutto ciò apparendoci così come fu, un uomo comune, un padre di famiglia, un lavoratore che guadagnava la vita con lo sforzo delle sue mani. E anche questo fatto ha per noi un significato che è motivo di riflessione e di gioia. La Sacra Scrittura dice che Giuseppe era artigiano. Alcuni padri aggiungono che fu falegname. San Giustino, parlando della vita di lavoro di Gesù, dice che fabbricava aratri e giogi. Forse per queste parole Sant'Isidoro di Siviglia conclude che Giuseppe era fabbro. Comunque, dice San José María, era un operaio che lavorava al servizio dei suoi cittadini con un'abilità manuale derivante da lunghi anni di sforzi e di sudore. Dei racconti evangelici risalta la grande personalità umana di Giuseppe. In nessuna circostanza si dimostra un debole o un pavido dinanzi alla vita. Al contrario, sa affrontare i problemi, supera le situazioni difficili, certo anche con grandi preoccupazioni, dicevamo, accetta con responsabilità e iniziativa i compiti che gli vengono affidati. Non sono d'accordo, dice San José María, con il modo tradizionale di raffigurare San Giuseppe come un vecchio, anche se riconosco la buona intenzione di dare risalto alla verginità perpetua di Maria. Io lo immagino giovane, forte, forse con qualche anno in più della Madonna, ma nella pienezza dell'età e delle forze fisiche. E continua San José María in questa bellissima omelia che ci fa sentire davvero San Giuseppe vicino, vicinissimo ad ognuno di noi. Dice San José María: per praticare la virtù della castità non c'è bisogno di attendere la vecchiaia o la perdita del vigore. La purezza nasce dall'amore e non sono un ostacolo per l'amore puro, la forza e la gioia della giovinezza. La fede di Giuseppe non vacilla, la sua obbedienza è sempre precisa, immediata. Per comprendere meglio la lezione del Santo Patriarca, è opportuno considerare che la sua fede è attiva e che la sua docilità non ha nulla dell'obbedienza di chi si lascia trascinare dagli eventi. La fede cristiana, infatti, è quanto di più opposto ci sia al conformismo e all'inerzia interiore. E come è vero, sappiamo bene, la fede cristiana vuole coraggio, sacrificio, vuole testimonianza. E questo è veramente non una fede in pantofole, altro che la scusa della fede. La fede esige coraggio. Continua San José Maria. Tale fu la fede di Giuseppe, piena, fiduciosa, integra, una fede che si manifesta con la dedizione efficace alla volontà di Dio, con l'obbedienza intelligente. E assieme alla fede ecco la carità, l'amore. La sua fede si fonde con l'amore. L'amore per Dio che compiva le promesse fatte ad Abramo, a Giacobbe, a Mosè. L'affetto coniugale per Maria, l'affetto paterno per Gesù. Fede e amore si fondono nella speranza della grande missione che Dio, servendosi proprio di lui, un falegname della Galilea, cominciava a realizzare nel mondo, la redenzione degli uomini. A volte, dice, si parla dell'amore come se fosse un impulso verso la propria soddisfazione, o una semplice risorsa per completare egoisticamente la propria personalità. Ma non è così. L'amore vero è un uscire da se stessi, è un darsi. L'amore porta con sé la gioia, ma è una gioia con le radici a forma di croce. Finché siamo sulla terra, finché non è raggiunta la pienezza della vita futura, non vi può essere amore vero senza esperienza di sacrificio, di dolore. Il Signore, dice San José Maria, ci fa conoscere che tutto ha importanza, sia le azioni che ai nostri occhi appaiono grandi, sia quelle che invece giudichiamo di poco valore. Nulla va perduto, nulla va perduto, e nessun uomo è disprezzato da Dio. Ognuno è chiamato a partecipare al regno dei cieli per mezzo del compimento della propria vocazione. Chi nel suo focolare, nella sua professione o mestiere, negli obblighi corrispondenti al proprio stato, nel compimento dei doveri civili, nell'esercizio dei propri diritti. E conclude. E quanto ci insegna la vita di San Giuseppe? Semplice, normale, comune, fatta di anni di lavoro uguali, di giorni che si susseguono con apparente monotonia. Ho pensato tutto ciò molte volte, meditando la figura di Giuseppe, ed è questa una delle ragioni della mia speciale devozione per lui. E ora, cari amici, abbiamo visto la parte dei santi, di alcuni santi, non potevamo inserirli tutti, passiamo adesso ai papi, alla Chiesa, ai papi, proprio lo vedremo nelle loro encicliche, nelle lettere apostoliche, nelle loro esortazioni, e parto dal capitolo 3 del libro, a pagina 41, e scrivo: «Innumerevoli e splendide sono le prove dell'efficace intervento di San Giuseppe a favore della Chiesa e dei fedeli che si sono susseguite nei secoli, ma ne voglio segnalare una in particolare perché fu veramente grave in quel momento il pericolo corso dalla Chiesa e dal popolo cristiano. Stiamo parlando del grande scisma d'Occidente, la grave calamità che a detta degli storici sarebbe bastata a minare in modo, diciamo, tremendo, terribile, la Chiesa alle sue fondamenta. E siamo al Concilio di Costanza. Costanza è una città, come sappiamo, della Germania. Si era radunato nella città di Costanza il concilio. Il concilio di Costanza iniziò nel 1414 e durò 4 anni, quindi si concluse nel 18, affinché si trovasse in questo concilio un rimedio ai tanti mali che per effetti dello scisma da molti anni ormai dilaniavano e desolavano il popolo cristiano, minacciando così tutta la Chiesa. Ricordiamo che oltre al romano pontefice Gregorio XII, erano presenti al concilio ben 2 antipapi. E proprio a Costanza, nel 1416, quindi a metà del concilio, visto che non andava avanti questa cosa, Giovanni Gerson, un insigne teologo e cancelliere dell'Università di Parigi, dal pulpito della cattedrale di quella città, incaricato di tenere il discorso per esortare l'assemblea a porre fine finalmente allo scisma che affliggeva la Chiesa, erano 2 anni che erano lì e non c'era praticamente nessun tipo di uscita, scelse per tema il testo di San Matteo, cioè Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo, Matteo 1,16. E qui diciamo che sorprese l'assemblea, perché non si capiva come, diciamo, partendo da questo passo, si poteva trovare uno sbocco a una definizione del concilio stesso. Ebbene, Gerson era un profondo conoscitore di San Giuseppe, ma lo amava veramente in modo particolare, unico, proprio come figlio devoto e proprio dal cuore, da un animo infuocato proprio dall'amore verso questo santo, esclamò e disse delle parole talmente grandi che fecero vibrare l'uditorio. Lui disse così: «L'onore reso a Giuseppe sarà il rimedio allo scisma che affligge la Chiesa». E ne spiegò anche la ragione teologica. Disse Gerson: Giuseppe, lo sposo di Maria, grande e onnipotente patrono, che tiene un grande ascendente sul cuore della sua sposa, renderà certamente la Chiesa al suo unico sposo nella persona del vero legittimo Papa che si tratta di riconoscere. Si sa che con quel concilio si chiude una ben dolorosa parentesi per la cristianità, e ciò sicuramente è stato per l'intercessione potente di San Giuseppe, perché in effetti fu pregato in modo unico, totale, da parte di buona parte dei padri conciliari e salvò, possiamo dire, in quel momento la vita della Chiesa come aveva salvato Gesù, portandolo in salvo in Egitto, quando Erode fece purtroppo la strage degli innocenti. Per farla breve, un anno dopo la chiusura del concilio, la Chiesa riacquistò l'unione e la pace con l'elezione di un unico pontefice, Papa Martino V. E la forte protezione di Giuseppe a favore della Chiesa e di noi, ognuno di noi, non mancò di manifestarsi anche in tante altre occasioni. Gli stessi papi, aderendo al desiderio di molti vescovi, di tanti ministri della Chiesa e di tantissimi fedeli, vollero testimoniarne pubblicamente la gratitudine. Lo fecero in molti modi, sia con il confermare feste e pie pratiche in onore del santo, sia soprattutto, come vedremo tra poco, proclamandolo patrono della Chiesa universale. E se diamo un rapido sguardo alla storia, assistiamo quasi a una sorta di gara tra i sommi pontefici per onorare il più possibile il santo patriarca e per promuoverne la devozione tra i fedeli. Infatti la sua festa, il 19 marzo, festa grande per tutto il mondo cristiano, fu confermata allora con decreto da Papa Gregorio XV l'8 maggio del 1621 e rinnovata da Papa Urbano VIII nell'anno 1642. E l'importanza che la Chiesa ha sempre attribuito a San Giuseppe è stata sottolineata dalle parole di un altro grande Papa, il Beato Pio IX. Pio IX così scrive nella sua lettera apostolica Inclitum Patriarcharum del 7 luglio 1871. Scrive così: «I romani pontefici, predecessori ai nostri, al fine di accrescere e di eccitare più efficacemente nel cuore di cristiani la devozione e la reverenza verso il Santo Patriarca, e di stimolarli ad implorare con somma fiducia la sua intercessione presso Dio, non mancarono ogni volta che se ne offrì l'occasione propizia di decretargli nuovi e sempre più splendidi omaggi di pubblico culto. Tra gli altri, dice il Papa Pio IX, basti ricordare i nostri predecessori di felice memoria. Sisto IV, che volle inserita nel breviario e nel Messale romano la festa di San Giuseppe. Gregorio XV, il quale con decreto ordinò che la festa suddetta fosse celebrata in tutto il mondo come festa di precetto. Clemente X, poi Clemente XI, il quale con decreto la volle decorare con messe ufficio proprio. Da ultimo, allora, Benedetto XIII, il quale con decreto volle aggiungere alle litanie dei santi il nome del Santo Patriarca». Ma a questo lungo elenco, cari amici, va aggiunto proprio il nome stesso di Pio IX, il quale con decreto del 10 dicembre 1847 estese a tutta la Chiesa la festa del patrocinio. Questa festa del patrocinio si celebrava già in alcune diocesi e finalmente poi con decreto dell'8 dicembre 1870, anche qui dopo aver ricevuto tantissime richieste e petizioni in questo senso, sia dai padri conciliari, c'era il Concilio Vaticano I, sia dai fedeli, pose, possiamo dire, sul capo del nostro San Giuseppe la più splendente corona, dichiarandolo patrono della Chiesa universale. E proprio a questo proposito, un altro insigne teologo, il Cardinale Le Pisier, scrive: «Le parole con le quali Pio IX, proclamava San Giuseppe patrono della Chiesa universale hanno realmente un significato molto grande e non sta a noi limitarne la portata, poiché San Giuseppe è vero sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Ne consegue quindi che il suo patrocinio si estende a tutti coloro che sono debitori del loro riscatto al Cristo e alla Madre sua, dal momento che egli è stato il custode dell'uno e dell'altra. Perciò, dice il Cardinale Lepissier, perciò il suo patrocinio si estende a tutti quelli che partecipano, che hanno partecipato e che parteciperanno in avvenire ai frutti della redenzione, e quindi anche a noi. Per i fedeli, dice, che militano ancora sopra questa terra, la cosa non presenta alcuna difficoltà. Quanto ai santi che sono in cielo, essi non possono non riconoscere le obbligazioni che hanno verso di lui, e benché non possano più peccare, non cessano tuttavia di essere suoi devoti. Per essi dunque, per i santi in cielo, San Giuseppe, dice Lepissier, sarà un patrono d'onore. E qui dice una cosa molto importante. D'altra parte, le anime che sono in purgatorio possono ancora essere da lui aiutate ad ottenere per mezzo dei suoi suffragi una pronta liberazione dai loro tormenti. E arriviamo a un altro grande Papa che conosciamo, Papa Leone XIII, e non si mostrò meno zelante degli altri nel favorire il culto del nostro santo. Ricordiamo qui in modo particolare la sua enciclica, Quamquam Pluries, del 15 agosto del 1889, un'enciclica densa, dobbiamo dire, di dottrine anche splendente di luce, e che costituisce, cari amici, uno dei più preziosi gioielli della fulgida corona che adorna il capo del nostro San Giuseppe. Leone XIII proclama San Giuseppe patrono universale di tutti i cristiani e scrive: «Ai padri di famiglia San Giuseppe concederà la grazia di vigilare i suoi figli e di educarli cristianamente. Agli sposi elargerà il dono di un reciproco e durevole amore, di una perfetta concordia nei vincoli dell'unione coniugale. Alle persone nubili comunicherà lo spirito di una grande purezza e castità. Ai grandi insegnerà qual è la vera grandezza e la vera ricchezza. Agli operai e agli indigenti insegnerà il modo di santificare se stessi col santificare il lavoro e sopportare con serenità la povertà. Alle persone assorbite dal ritmo travolgente degli affari e delle molte occupazioni insegnerà il desiderio e la nostalgia della vita interiore». Infine, dice Papa Leone XIII, alle anime infine che hanno la missione di dedicarsi come la Maddalena a quella che fu definita da Gesù la parte migliore, San Giuseppe insegnerà il segreto per vivere sempre nell'orazione, crescendo in perfezione letizia. Segreto, dice il Papa, che consiste nel tenersi sempre come lui, costantemente uniti a Gesù e a Maria. E da Papa Leone XIII arriviamo poi, scalando nel tempo, a Papa Pio XI. E si assiste ancora nel XIX secolo da parte di altri papi proprio alla grande devozione verso San Giuseppe. Ricordiamo per esempio San Pio X, che promulgò con annesse indulgenze le litanie di San Giuseppe. Ancora poi Papa Benedetto XV, che ripristinò la festa di San Giuseppe come festa di precetto. Oggi non lo è. Pio XI, che adesso affronteremo, non lasciava passare occasione senza esaltare con la più ardente devozione il grande patriarca, a tal punto che questo papa potrebbe essere definito il papa di San Giuseppe, così come fu giustamente chiamato anche il papa delle missioni, da lui partirono le missioni in tutto il mondo, e anche dell'azione cattolica. E Pio XI desiderava che i fedeli avessero proprio di San Giuseppe un'altissima stima, non solo che nutrissero per lui una grande, profonda devozione. E a questo proposito diceva così: «Grandissima deve essere la fiducia che noi dobbiamo avere per San Giuseppe, che è in così sublimi rapporti con il Verbo di Dio umanizzato, con la Madre di Dio, possiamo anzi dire che è in unici rapporti con le sorgenti stesse della grazia e della vita, cioè la Santissima Trinità». Ma ciò che soprattutto indusse la Chiesa a invocare San Giuseppe come suo protettore universale fu senza dubbio, e come ci assicura anche il Santo Padre Leone XIII, la missione di San Giuseppe, tanto premurosamente e affettuosamente esercitata di custode, difensore e provveditore della Sacra Famiglia di Nazareth, la culla della Chiesa nascente, costituendone anzi il primo nucleo e la cellula embrionale. E proprio questa missione fu unica e irripetibile, e San Giuseppe, che fu per divino mandato il custode, il protettore della Santa Famiglia, sarà, cari amici, per logica conseguenza il protettore della Santa Chiesa. E se egli è stato, come è stato, il custode di Gesù, anche dal cielo continuerà ad essere custode del suo corpo mistico, che è la Chiesa. E se è stato, come è stato, difensore di Cristo, salvandogli la vita, dal cielo questo santo continuerà ad essere il difensore del vicario di Cristo, facendogli scudo contro i suoi nemici. Infine, se il nostro santo patriarca ebbe sulla terra l'incarico di alimentare, nutrire e crescere il figlio di Dio, procurandogli il pane con il sudore della fronte, anche dal cielo adempirà l'incarico di nutrire, crescere e moltiplicare i figli di Dio e della Chiesa, distribuendo a tutti i suoi fedeli tesori di grazie. E questi tesori di grazie, vi assicuro, ci attendono. E questo ce l'ha detto in modo particolare, oltre agli altri santi, in particolare Santa Teresa d'Avila. E l'investitura ufficiale di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, se prima era celebrata solo in documenti e scritto in devozione e sentimenti popolari, ora proprio ad opera di Papa Pio XI diventa realtà di fede. E anche se di alcuni secoli lontani mi collego a quello che scriveva un santo vescovo spagnolo, dotto, era il devoto Alonso Cartagena, e in una sua omelia disse così: «Non v'è modo più facile e più efficace per ottenere le divine grazie che salire i tre gradini di questa scala, da Giuseppe a Maria, da Maria a Gesù, da Gesù al Padre. Gesù mostra al Padre le sue ferite. Maria mostra a Gesù il suo seno, Giuseppe mostra a Maria le sue braccia che tanto hanno faticato per sostenere lei e Gesù. Noi sappiamo, dice il padre Cartagena, che il padre nulla può rifiutare a Gesù come Gesù nulla sa rifiutare alla sua Madre Santissima e come Maria nulla potrebbe rifiutare al suo purissimo e casto sposo che l'ha custodita, sostenuta, protetta, come ha fatto per Gesù, che ha amato in modo particolare. E anche Santo Padre Pio XI ce lo ricorda in un discorso, anche qui tenuto agli sposi, erano da poco sposati, siamo nel marzo del 1938, ecco la famiglia sempre in modo particolare, al centro di tutto, dice il Papa a questi sposi novelli: «La famiglia che voi avete iniziato e fondato, queste vostre famiglie, somigliano alla famiglia alla quale sedeva, proprio con autorità di padre, San Giuseppe Benedetto. Che questo protettore della famiglia, alla quale appartennero Gesù e Maria, sia anche il protettore delle vostre famiglie. Che egli con la sua paterna provvidenza e con la sua potente intercessione sia di aiuto a voi e alle vostre famiglie». Diciamo la sua potente intercessione, perché è quello che bisogna dire. Si vuol dire ed osservare questa parola dell'intercessione di Maria Santissima, ma osiamo dire che prima ancora bisogna applicarla a San Giuseppe. È vero, dice il Papa, l'intercessione di Maria è l'intercessione della Madre, quindi non si può vedere che cosa il Divin Figliuolo possa negare ad una tale Madre, ma l'intercessione di San Giuseppe è l'intercessione del Padre Putativo, del capo di casa della famiglia di Nazareth, che era composta da lui, da Maria e da Gesù. Capo di casa era dunque San Giuseppe, è tutto dire, dice il Papa. Questa intercessione non può non essere onnipotente, perché cosa possono negare ancora lui a San Giuseppe, Gesù e Maria, ai quali egli ha consacrato letteralmente tutta la sua vita e che realmente gli devono i mezzi della loro esistenza terrena? E quindi se in tempi particolarmente difficili per la Chiesa avvenne la sua proclamazione a patrono della Chiesa universale, ora, come abbiamo visto, Papa Pio XI, il 9 agosto del 1922, volle che il nome di San Giuseppe fosse anche inserito nelle preghiere per i moribondi. E arriviamo ora a un altro Papa. Stiamo guardando tutti i Papi, quindi Papa Pio XII, venerabile. Il 1 maggio del 1955, in piazza San Pietro, Papa Pio XII proclama San Giuseppe patrono dei lavoratori e degli artigiani, consacrando ufficialmente la festa del lavoro col crisma cristiano. E riportiamo alcune frasi del suo discorso. Dice Papa Pio XII: la Chiesa, custode del Vangelo, proclama così i suoi principi di giustizia, di carità e di fraterna coesistenza, che sono amore di Dio e amore del prossimo. Perciò la festa liturgica del lavoro significa la festa dell'amore. Magnifico esempio offerto al mondo del lavoro. In questa circostanza, la figura di San Giuseppe, lavoratore nella bottega di Nazareth, sposo della Vergine Immacolata, padre virginale di Gesù Cristo, si presenta oggi davanti al mondo del lavoro, rivestita di una luce che la rende più cara e più vicina a noi. È bello e consolante trovare proprio accanto al lavoro e alla propria fatica quotidiana, alle preoccupazioni di ogni ora, per procurare a sé e ai propri cari il sostentamento alla vita di ogni giorno, vedere e avere vicino un così caro amico che col lavoratore condivide l'asprezza del cammino, irto ad ogni passo di ostacoli e di triboli. E arriviamo anche alle soglie del nuovo millennio, cari amici. Un altro riconoscimento ufficiale a San Giuseppe fu elargito proprio da San Giovanni XXIII, da Papa Giovanni, il Papa Buono, che il 19 marzo del 1961 lo proclamò protettore eminente del Concilio Vaticano II. E qui arriviamo a Papa Paolo VI. Il mese di maggio si apre con la festa dei lavoratori che la Chiesa ha posto sotto la protezione di San Giuseppe. A lui, umile e giusto artigiano di Nazareth, che ha trascorso la sua vita nell'assiduo lavoro in unione con Gesù e Maria, rivolgiamo la nostra fervida preghiera. Con questi pensieri, San Paolo VI apre la sua personale lode a San Giuseppe e continua così. Oggi, 1 maggio, il lavoro e i lavoratori impegnano la nostra preghiera e San Giuseppe le apre le vie del cielo. Preghiamo sì per il lavoro, perché sia saggiamente concepito, guidato, sviluppato, perché dia il pane, non strumenti micidiali all'uomo, perché sia a tutti onestamente assicurato e giustamente retribuito, poiché il lavoratore sia consolato nelle sue fatiche, assistito nei suoi bisogni, elevato nei suoi ideali. E per i lavoratori preghiamo, dice Paolo VI, perché il Signore li ricompensi dei benefici che si procurano alla società e perché le aspirazioni di giustizia e di rinnovamento sociale che essi hanno negli animi non si traducano in sentimenti di odio e di ribellione, ma in positive e ordinate esigenze di collaborazione e di bene comune. E preghiamo, dice il Papa, anche per le vittime del lavoro, i malati, i feriti, i morti sul lavoro. Per la pace sociale e per la vera prosperità civile e cristiana dei popoli preghiamo. L'umile grande protettore dei lavoratori, San Giuseppe, la Madonna, Cristo, lui stesso operaio, ci ascoltino. E ancora lo stesso Pontefice rinnova ancora una volta la nomina di San Giuseppe a celeste protettore del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dal nostro Paolo VI arriviamo a un altro Papa, devo dire, straamato lo è stato, San Giovanni Paolo II. come non ricordare la sua esortazione apostolica Redemptoris Custos, dedicata proprio a San Giuseppe il 15 agosto del 1989. E San Giuseppe è ancora nei pensieri di Giovanni Paolo II quando il Papa stesso afferma, durante l'udienza generale del 30 aprile dell'86, dice, sempre rivolgendosi agli sposi, ecco, proprio San Giuseppe possiamo dire patrono degli sposi, della famiglia, dice il Papa, cari novelli sposi, a voi voglio ricordare la cara e grande figura di San Giuseppe, sposo di Maria Santissima. Auspico che possiate trovare sempre nel falegname di Nazareth un modello e un intercessore e anche un esempio di probità nel lavoro, di diligenza nel compierlo, di pazienza nell'accoglierne i pesi, di perseveranza di farli fruttare. Il mio pensiero va agli operai, agli agricoltori, agli artigiani, ai pescatori e a tutti coloro che col sudore quotidiano guadagnano il necessario per le loro famiglie e per la società intera. Invoco la protezione di San Giuseppe su di loro e su coloro che si trovano disoccupati. E ogni lavoratore, anche il più modesto tra gli operatori economici, anche se non investito di particolari responsabilità, non deve accettare il lavoro con passiva rassegnazione, non deve considerarlo un peso mortificante. Ma egli stesso deve divenire l'artefice del riscatto sociale della propria condizione, adottando un comportamento consapevole della sua dignità di uomo, dell'importanza sociale della propria opera. Questa è in sintesi l'esortazione di San Giovanni Paolo II. E io dico, preghiamolo San Giuseppe, rivolgiamoci a lui anche per la ricerca del lavoro, per l'aiuto che ci può dare in ogni giorno della nostra vita, anche con il nostro pane quotidiano. E concludo, ecco perché la Chiesa, cari amici, nel confortare l'uomo sul cammino della sua fatica quotidiana, propone San Giuseppe come modello di nobilitazione umana e morale. Bene, cari amici, dunque abbiamo terminato qui la seconda parte di questa figura bellissima, meravigliosa, perché tale sto cercando, ecco, stiamo cercando insieme di vedere, non so, di approfondire anche le cose più belle, più grandi, che ci aiutino, ecco, anche nel nostro cammino quotidiano da parte di San Giuseppe. Veramente preghiamolo col cuore, perché abbiamo insomma degli esempi unici che ci aiutano, ci invitano a tenerlo nel nostro cuore, vivo, presente, qui vicino a noi. Ecco, io ricordo ancora il libro che ho scritto, che è uscito da poche alcune settimane su questo santo, proprio nell'anno che Papa Francesco ha dedicato a San Giuseppe, e il libro è San Giuseppe, la tenerezza di Dio, sono le edizioni Sugarco, quindi lo trovate in tutte le librerie, o potete richiederlo, come dicevo appunto, con i vari canali di ricerca tipo IBS, Amazon e quant'altro. Non abbiamo purtroppo la possibilità di fare delle telefonate. Se desiderate comunque scrivere, potete farlo con l'email info.ita@radiomaria.org, oppure potete telefonare all'ufficio informazioni 031 610 600, io comunque vi risponderò senz'altro. Vi auguro nel contempo un mese di giugno meraviglioso, speriamo insomma, il mese del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, aggiungiamo anche il Cuore Santissimo di San Giuseppe. Un abbraccio a tutti voi da Angelo e buona serata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.